parto, io osservo tutto il resto che gira intorno a me. In fondo ad uno specchio riflesso il mio futuro, che non riesco più a vedere.